Body Mind. Un saluto a tutti i lettori di Body Mind da Emmanuel Mian. Benvenuti a questo primo appuntamento con il podcast del blog sui disturbi dell'immagine corporea e dell'alimentazione. Oggi tratteremo un argomento che mi è stato molto richiesto via mail, e cioè la fame emotiva o fame nervosa. Intendiamo con questo nome un comportamento alimentare particolare, che è quello di utilizzare il cibo per far fronte alle emozioni che durante la giornata, durante il nostro vivere quotidiano, incontriamo. In definitiva è una errata gestione delle proprie emozioni, della propria emotività, che utilizza come strategia l'introito, l'uso e soprattutto l'abuso del cibo, visto come una valvola di sfogo. Parlando di emozioni, io concepisco ovviamente la totalità di esse, sia quelle negative che quelle positive, ad esempio rabbia, tristezza, allegria e gioia. Molte volte infatti ci capita di incontrare persone che dicono: va tutto bene col mio compagno, andiamo d'accordo, sul lavoro va tutto bene, sono soddisfatto, ma non riesco a non abbuffarmi, o mangio per riempirmi, o solo per nervoso, o magari per noia, solo per fare ovviamente alcuni esempi. Alcune domande da farsi sono quelle che possiamo trovare sul blog, ad esempio se ci sono certe persone o luoghi particolari che vengono prima o dopo l'episodio di fame nervosa. Ovviamente possiamo anche valutare se spesso mangiamo per noia o perché ci sentiamo soli, oppure possiamo valutare se è un periodo particolare e quindi siamo subissati da responsabilità che prima magari non avevamo. Queste sono solo alcune delle domande che si può porsi per monitorare il proprio comportamento davanti al cibo visto come sfogo. Le risposte permetteranno di giungere già con alcuni indizi ad un consulto presso uno specialista. Un consiglio è quello di scrivere un diario della fame nervosa, fatto sulla falsariga di quello alimentare di cui parlammo tempo addietro, in cui deve esservi presente la data, l'ora, il luogo dove avviene l'episodio e le persone presenti in caso, ovviamente poco prima o poco dopo se ci troviamo da soli a tu per tu con il cibo. E ovviamente la cosa più importante, le emozioni che ne scaturiscono. È importante che il diario sia fatto durante il corso della giornata, ora per ora, o almeno nel momento in cui avviene l'alimentazione, e non dopo ore dall'episodio, altrimenti si perde quel filo conduttore che permetterà di valutare l'accaduto in maniera obiettiva. Mi viene chiesto molto spesso quando c'è bisogno di chiedere aiuto. Dopo aver letto il diario della fame nervosa, che ci serve per monitorare la situazione, e se gli episodi sono almeno due alla settimana e le emozioni che leggiamo dal diario ovviamente creano una qualità insoddisfacente, che so, dei rapporti con le altre persone o con noi stessi, credo che un consulto dal medico curante o dallo psicologo potrebbe essere una valida soluzione per dipanare ogni dubbio. Ricordo che la fame nervosa solitamente avviene con una sensazione di fastidio sulla zona addominale, sullo stomaco, poco prima o dopo l'episodio, e quindi anche questo da segnalare sul diario di cui abbiamo appena parlato. Ribadisco che la differenza con la fame biologica è che il meccanismo di assunzione del cibo si arresta quando la quantità è adeguata alle proprie necessità energetiche. Ciò avviene per una regolazione interna dell'equilibrio fame-sazietà, di cui non entro nel dettaglio qui. Ovviamente negli individui con la fame nervosa molte volte questi equilibri sono del tutto alterati. Concludendo, un consiglio finale è quello di arginare, riconoscendo sin da subito gli episodi di fame nervosa e soprattutto quelli di iperfagia, cioè di alimentazione di notevoli quantità di cibo con voracità ed in poco tempo, perché si portano molto velocemente ad un inevitabile aumento del peso corporeo. Potete scrivermi per delucidazioni a info@immagine-corporea.com. Grazie dell'attenzione e a risentirci. Body mind.